Salva Danaio di Deborah Rosciani. Si decide di dare una soluzione strutturale al tema del precariato nella pubblica amministrazione del nostro paese. Abbiamo deciso di tipizzare e di ridurre le forme di lavoro flessibile. Abbiamo messo alcune barriere per evitare che nel nostro paese si ripetano quelle modalità di scorciatoie per avere l'assunzione nella pubblica amministrazione senza concorso che in passato purtroppo sono state fin troppo presenti. Penso all'utilizzo delle società partecipate e altri perimetri paralleli, diciamo così. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, lo avrete riconosciuto, era il Premier Enrico Letta ieri nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri che a sua volta ha varato il famoso provvedimento per stabilizzare i precari della pubblica amministrazione. Allora, questa è la premessa. In autunno, e questa è un'altra, arriveranno dei cambiamenti per quello che riguarda i nostri programmi e qualche ritocco prossimamente lo avrà anche Salva Danaio. Nelle prossime settimane vi spiegheremo che cosa faremo, ma intanto riprendiamo un percorso che ci siamo dati ad inizio anno, vale a dire quel percorso che riguarda il lavoro, le novità che sono arrivate quest'anno, prima i dettami della riforma Fornero del giugno dello scorso anno, poi vi abbiamo spiegato nelle ultime settimane i cambiamenti fissati dal pacchetto Letta-Giovannini di quest'anno. E visto che ieri pomeriggio, come vi dicevo poco fa, il Consiglio dei Ministri ha affrontato una questione molto spinosa, dopo la pausa di agosto abbiamo deciso di riprendere immediatamente i nostri martedì del lavoro. Il tema di oggi è quello proprio della stabilizzazione dei precari, cioè di 150-120.000 lavoratori del settore pubblico. Poi daremo anche qualche informazione più precisa relativamente alle cifre. Ieri appunto è stato varato dal Consiglio dei Ministri riunito nel pomeriggio il provvedimento ribattezzato Salva Precari, più che stabilizza precari. Che novità ci sono? Per i precari appunto di questo ambito ci saranno concorsi riservati per il 50% dei posti e scatta anche una stretta sull'utilizzo del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. I contratti a termine saranno da utilizzare solo per ragioni eccezionali e il dirigente che adotterà contratti di questo tipo sarà chiamato a risponderne anche in termini economici. Insomma, tante cose interessanti da raccontarvi. Precari della pubblica amministrazione, vi trovate in questa situazione? Conoscete qualcuno che vi si trova? Vi tranquillizza il provvedimento preso ieri dal governo? Raccontateci, se volete, la vostra esperienza, le vostre ragioni. Se non appartenete a questa platea, diteci cosa ne pensate. Se da un lato infatti i sindacati si mobilitano, dall'altro molte persone non guardano di buon occhio a questo provvedimento. E allora 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, interagire con noi come siete abituati appunto a fare, fate sempre volentieri, oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook, come sapete il nostro profilo è salvadanaio@radio24, su Twitter @salvadanaio24. I nostri ospiti di questa mattina ringrazio e saluto Michele Gentile, coordinatore pubblico impiego della CGIL, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Gentile, grazie anche all'avvocato Giampiero Falasca, il nostro giuslavorista, esperto delle tematiche del lavoro per il Sole 24 Ore. Avvocato Falasca, ben ritrovato anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Con questi ospiti appunto, vi ripeto, vi spiegheremo queste novità contenute nel decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Prima di tutto questo, un'occhiata anche oggi alla borsa. Borsa negativa anche oggi, sul mercato pesano intanto i venti di guerra che spirano in Siria, chissà che gli Stati Uniti addirittura non abbiano intenzione, come così un po' tra le righe preannunciato, intervenire direttamente appunto verso questo paese. Detto questo, oggi anche questo è un tema appunto che incupisce un po' gli investitori internazionali, già ieri hanno preoccupato anche quelli americani. Il mercato americano comunque viaggia su livelli molto alti e quindi ieri la Siria è stata presa a pretesto per portare a casa qualche presa di profitto. Dow Jones -0,43, ieri sera Nasdaq invece sulla parità. L'Europa oggi male, ieri gli stini avevano tenuto a fronte invece di una Milano che aveva perso oltre 2 punti percentuali, oggi invece tutte giù Parigi meno 1,32, Francoforte meno 1,39, Londra meno 0,7%, vicino a 2 punti di calo, Madrid, Milano meno 1,47%, con uno spread che è tornato ad allargarsi. Ieri aveva toccato i 250 punti base, oggi li supera e arriva a 254. Il mercato europeo non guarda per niente all'indice IFO tedesco, la fiducia delle imprese tedesche. Questa è una statistica sempre molto importante, di cui i mercati tengono sempre molto conto. Oggi questa statistica è stata molto positiva. Ad agosto l'IFO è salito a 107,5 punti, un dato ben al di sopra delle attese. Il mercato invece lo trascura totalmente. Vediamo a Piazza Affari come vanno i titoli, le società quotate. Intesa San Paolo meno 2,85, la peggior banca in questo momento risente chiaramente dello spread più ampio. Unicredit meno 2,36, A2A meno 2,31, Buzzi Unicem meno 2,27, Mediobanca meno 2,17, Exor Holding di Casa Fiat meno 2 punti, STM meno 2 punti. Segno più invece su pochi titoli, prestazioni anche piuttosto ridotte. Prismian più 0,6%, G-Tech rimbalza, la ex Lottomatica più 0,3%, Parmalat più 0,2%, Autogrill più 0,09%. Le ultime indicazioni sull'asta di titoli di Stato che era prevista questa mattina: il Tesoro ha venduto 2 miliardi e 980 milioni di euro di CTZ a 24 mesi, con un tasso in rialzo all'1,87% dall'1,85% del mese scorso. Il tasso in rialzo di poco, ma comunque questo è già un piccolo segnale. È stato venduto anche 1 miliardo di BTP indicizzati all'inflazione dell'Eurozona, in linea con l'offerta massima, tassi al 2,30% sul titolo che scade nel settembre 2018, tasso al 3,30% sul titolo che scade nel settembre del 2026. Direi che per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi, un tema molto delicato. Parliamo del provvedimento che ha avuto il via libera dopo qualche settimana di incertezza, un po' di tentennamento, perché in realtà, se non ricordo male, il provvedimento sarebbe dovuto arrivare la settimana precedente. Ieri appunto il via libera da parte del governo al decreto salva precari, stabilizza precari, e comunque una sorta appunto di meccanismo viene introdotto per stabilizzare i lavoratori della pubblica amministrazione, i precari della pubblica amministrazione. Allora, Michele Gentile, vorrei subito sentire il commento del sindacato sul pacchetto varato ieri. Era più o meno quello che chiedevate? Vi accontenta? Si poteva fare qualcosa di più? O tutto sommato, data l'aria che tira anche, e con tutti anche i provvedimenti della spending review, tutti i risparmi che a livello pubblico si cercano, si devono fare, comunque questo era quanto di meglio appunto il governo poteva produrre in una fase come questa? Beh, diciamo che dopo tanti anni nei quali la pubblica amministrazione è stata soltanto oggetto di tagli e basta, ieri per la prima volta con questo decreto c'è una piccola inversione di tendenza, nel senso che quanto detto dal Presidente del Consiglio Letta nel suo discorso iniziale, il superamento del precariato, con questo provvedimento si individua un percorso che potrebbe portare al superamento del precariato. Potrebbe, perché se è positivo il fatto che con un decreto legge si cominci ad affrontare questo problema, i vincoli assunzionali e i vincoli finanziari messi dal 2008 ad oggi rendono abbastanza problematica la soluzione del problema che, ricordo, secondo i numeri della Ragioneria Generale dello Stato riguarda non meno di 150.000 persone, esclusa chiaramente la scuola. Esatto, la scuola ha fatto bene a precisarlo, perché già stanno arrivando molte domande da parte di molti ascoltatori che chiedono di capire se anche, per esempio, quelli che hanno fatto il concorso nell'ultima tornata nella scuola sono interessati al provvedimento di stabilizzazione. Non c'entra nulla. Non c'entra nulla con questo provvedimento. La scuola ha delle sue regole, delle sue procedure. Questo riguarda, diciamo, ministeri, agenzie fiscali, enti locali, sanità, enti di ricerca, università. Questo è il tema, questo è il campo di applicazione. Abbiamo inquadrato i settori dove sono impiegati. Quindi riguarda la platea è 1.700.000 persone. In questo 1.700.000 persone, allo stato attuale dei fatti, esistono circa 150.000 precari tra tempi determinati, contratti di collaborazione, somministrati, LSU, formazione lavoro. A questi numeri dei precari il governo ha inteso aggiungere il tentativo di trovare soluzione ad un problema sconvolgente che esiste in questo paese e che riguarda i vincitori di concorso, cioè coloro che hanno fatto un concorso nelle amministrazioni pubbliche, legittimamente un concorso bandito, lo hanno fatto, lo hanno vinto, ma non sono mai stati assunti perché nel frattempo sono cambiati i numeri, cioè il cosiddetto turnover, la possibilità di sostituire il personale andato in pensione. Dal 2008 in poi questo numero è sempre di più diminuito. Morale della favola, ci sono tanti lavoratori che hanno vinto un concorso ma non hanno un lavoro. Perché praticamente queste persone, questi lavoratori della pubblica amministrazione che andavano in pensione, questo è il blocco del turnover, non venivano sostituite praticamente da figure professionali di pari contratto sostanzialmente, sì, no? Sì. Quindi diciamo che allo stato attuale dei fatti, per esempio, su 100 pensionati dei ministeri se ne possono assumere solo 20. Mm-hmm. Quindi significa che 80 vanno via, il che significa anche che come si stanno riducendo i numeri dei dipendenti pubblici. Quindi il punto delicato qual è? Avere un unico provvedimento che cerca di risolvere problemi che sono diversi fra di loro. Infatti la nostra valutazione qual era? Ho detto prima, un provvedimento positivo perché si comincia ad affrontare questo problema. Probabilmente i tanti vincoli finanziari rendono questo provvedimento insufficiente, nel senso che non è sufficiente a risolvere il problema fino al 2015, perché i tempi sono molto stretti, perché si possono bandire concorsi pubblici con riserva dei posti, ma fino al 31 dicembre 2015. La platea è solo per adesso riservata ai tempi determinati, che in quei 150.000 rappresentano 86.000 persone, e tra queste 86.000 solo quelli che hanno maturato fino a questo momento 3 anni di contratto negli ultimi 5, escludendo molta gente che magari, molti lavoratori che lo matureranno domani, lo matureranno fra un anno, e quindi anche quello è un tema che bisogna affrontare. E poi il rischio che noi vediamo è che questi 3 soggetti, cioè vincitori di concorsi, idonei ai concorsi ma non assunti, e precari, rischiano di essere portatori di interessi contrastanti. Vi faccio un esempio: il vincitore di concorso chiaramente ha un diritto che è precedente l'indizione di un nuovo concorso, perché lui ha già vinto un concorso prima. Il precario, per poter essere stabilizzato, ha bisogno che invece venga indetto un concorso pubblico. Quindi c'è un oggettivo contrasto di interessi che occorrerà in qualche modo affrontare. Quindi diciamo che decreto alla giornata poi di pubblicazione in Gazzetta del provvedimento definitivo, tutto il passaggio in Parlamento, ne vedremo probabilmente di cambiamenti, Gentile. Sicuramente. E voi siete lì per quello anche, chiaramente, per fare un po' di pressione per tutti gli aggiustamenti del caso. Ci ritorneremo su questi aspetti, le chiedo un attimo di pazienza perché volevo sentire anche l'opinione del giuslavorista di Giampiero Falasca, che in questi mesi ci ha aiutato a spiegare in lungo e in largo, come raccontava all'inizio, i provvedimenti del pacchetto Fornero di un anno fa, poi le novità che sono state introdotte, reintrodotte in certo casi dalle misure appunto del ministro del welfare Enrico Giovannini. Da settimane, avvocato Falasca, noi parliamo di stabilizzazione dei contratti nel settore privato, perché tante puntate di Salvadanaio lo abbiamo dedicate anche a quell'argomento. Oggi invece andiamo a affrontare la questione della stabilizzazione nel settore pubblico. Il suo giudizio dal punto di vista tecnico del pacchetto che ieri è stato varato appunto dal presidente Letta, qual è? Ma sì, io intanto leggendo e rileggendo le bozze del decreto, no? Che ancora non ho visto un testo stabilizzato, ma a me veniva. A proposito di stabilizzazione, se non è stabilizzato neanche il testo, partiamo bene già, ecco. A me veniva in mente 2 cose. Primo, che il nome forse potrebbe essere Illudi Precari e non Stabilizza e non altri, perché ad oggi non c'è null'altro che la promessa di dare la metà dei posti di concorsi che saranno banditi ai cosiddetti precari. Quanti saranno questi concorsi da qui al 2015 non c'è scritto, e considerando che devono essere banditi nei limiti delle risorse disponibili, come diceva anche prima Gentile, io sarei molto molto cauto, perché qui si creeranno delle aspettative enormi che andranno clamorosamente diciamo deluse per gran parte delle persone. Quindi prima questione, perché si dice solo che se ci sarà un concorso il 50% dei posti saranno dati ai cosiddetti precari. Il secondo commento che mi viene in mente è che qui andiamo in un evidente conflitto con il principio costituzionale del concorso. Non dico che la norma è incostituzionale, dico che comunque un pochino lo spirito del concorso pubblico, del fatto che il posto pubblico deve essere contendibile da tutti a parità di condizioni, un pochino qua c'è del passo. I concorsi, il criterio per vincere un posto pubblico non sarà esclusivamente il merito, ma questo peso dell'anzianità pregressa andrà un po' a mutare geneticamente quello che è sempre stato un concorso. Quindi pubblico. Lei dice non verrà in maniera corretta tenuto in considerazione il tema dell'anzianità. È un po' come è successo per il concorso della scuola, perché io l'ho visto in prima persona, lo ha fatto mia sorella, avvocato Vlaska, ne abbiamo parlato mille volte, ci sono persone appunto nel settore della scuola che sono in graduatoria appunto per entrare stabilmente appunto a fare gli insegnanti da tempo e si sono ritrovati invece a dover scegliere se continuare appunto ad aspettare di entrare appunto stabilmente nel mondo della scuola con queste graduatorie oppure fare il concorso. C'è chi ha scelto di fare il concorso nonostante fosse in ottima posizione appunto in graduatoria, oggi non sa, proprio perché la sua anzianità non si capisce bene come verrà tenuta in considerazione, non sa se preverrà il concorso nell'immissione in ruolo appunto piuttosto che la graduatoria vecchia. Cioè, non vorrei che finisse anche per questi lavoratori esattamente come sta finendo per la scuola, una grande confusione. La pubblica amministrazione è strabica da questo punto di vista, a volte vuole premiare il merito, a volte l'anzianità, a volte prova a far combaciare entrambi senza grandi risultati. Ma poi volevo concludere l'analisi del provvedimento. La terza osservazione che mi viene è quella, diciamo, ieri Letta ha messo molta enfasi su questa norma, è la parte in cui si dice che i contratti cosiddetti precari, cioè i contratti a termine, saranno utilizzati da ora in poi solo per esigenze eccezionali e temporanee. Io invito a una certa cautela, perché questa norma già c'era da svariati anni, è stata aggiunta la parola esclusivamente alla norma. Prima si diceva esigenze temporanee eccezionali, oggi si dice esclusivamente temporanee ed eccezionali, e poi è stato sancito il principio per cui i contratti a termine in violazione di queste norme sono nulli, ma già prima era così. Quindi mi colpisce un po' che i provvedimenti sul lavoro di questi ultimi mesi, ma direi di questi ultimi anni, sono accompagnati sempre da grandissima enfasi, che poi dentro, andando a leggere le norme, un pochino va a ridursi. Certo, questo comunque è un problema. Mi stavo chiedendo, avvocato Vlaska, quale potesse essere, per esempio, per andare a lavorare temporaneamente in un ente di ricerca, una circostanza eccezionale che fa richiedere appunto una persona in più. Forse quello era solamente un modo per dire, da quel punto di vista, questi contratti per lungo tempo non ne faremo più, insomma, una clausola di salvaguardia, la chiamerei così, non trova? Questo è un problema, perché comunque il dirigente che firma quel contratto rischia la casa, perché diciamo viene fissando il principio della responsabilità erariale, che anche questo già c'era prima. Quindi comunque si mette nel sistema, da un lato si fa pressione perché la pubblica amministrazione vada avanti, dall'altro si mettono queste norme che poi creano un cortocircuito, perché ha detto benissimo lei qual è l'esigenza eccezionale. Questo vorrebbe dire, ma voleva dire anche ieri, che la pubblica amministrazione non deve sostanzialmente prendere personale flessibile, ma poi vediamo che ogni giorno migliaia di persone entrano e quindi c'è una lontananza tra le norme e quello che succede certo nella realtà. Allora, ci sono già tanti ascoltatori pronti ad intervenire, vorrei immediatamente raccogliere queste testimonianze e queste esperienze. Comincio leggendovi però il messaggio di Silvio da Venezia al 349-238-6666, che dice: sono un bagnino stagionale, 6 mesi, di una municipalizzata, assunto con questa modalità da più di 10 anni, mi può riguardare? Michele Gentile, vogliamo rispondere a questo bagnino. Quindi evidentemente da 10 anni il comune di una municipalizzata appunto per 6 mesi, da 10 anni lui viene assunto, 6 mesi sta a spasso. Che ne pensa di un diciamo caso? No, questa norma in teoria non riguarda questa persona, perché gli stagionali hanno un lavoro specifica regolamentazione che è insita nella, diciamo, nel termine stesso, cioè c'è un lavoro stagionale che ha, che ha una sua normativa specifica. Qui la norma, per come è scritta, o almeno per come sarebbe scritta, poi anch'io come l'avvocato Vlaska sono abituato a leggere, cioè a sapere esattamente qual è il testo che esce da oggi, spero oggi, che vada su al Quirinale nella stessa giornata di oggi, prima di poter fare una, diciamo, di sapere esattamente, poter esprimere esattamente sul contenuto, però allo stato attuale dei fatti quella norma riguarda coloro assunti a tempo determinato, gli stagionali non sono, diciamo, assunzioni a tempo determinato, che hanno avuto un contratto di 3 anni negli ultimi 5 anni. E non credo che la misura che il bagnino appunto stagionale possa ricadere all'interno di questo provvedimento. Allora ci fermiamo perché abbiamo la nostra prima pausa. Il mondo del pubblico impiego, delle persone che lavorano in questo settore, è un mondo che è spesso giudicato con grande pregiudizio da molti, e ci sono appunto infatti tanti ascoltatori che commentano in maniera un po' così maliziosa il provvedimento che ha varato ieri il governo. Come sempre noi non ci stiamo di fronte ai pregiudizi, sicuramente come in ogni settore, e vi posso assicurare che nel comparto privato avviene esattamente la stessa cosa. Ci sono persone che sono molto serie e che lavorano senza risparmiarsi anche nel settore pubblico, esattamente come succede in quello privato, esattamente come succede in quello privato. Ci sono i lavativi del settore pubblico, e quindi è inutile che continuiamo a fare commenti appunto sul provvedimento preso ieri e sul fatto che, come dice un ascoltatore, vengono solamente stabilizzati definitivamente 150.000 persone improduttive, a parte che bisognerà vedere ancora nei mesi prossimi questa stabilizzazione appunto nel concreto come avverrà, perché abbiamo solo un contorno generale di riferimento. Però insomma stiamo attenti anche a questi giudizi, perché ci interessa anche come persone rivolgerci agli uffici pubblici, avere delle persone competenti davanti a noi. Molto spesso capita che non ce ne sia, naturalmente, ma questo capita anche nel settore privato, per cui i giudizi poi lasciano il tempo che trovano. Però li raccoglieremo volentieri, ce n'è uno molto piccato di Oscar da Rovigo che sentirò dopo la pausa, e poi qualche domanda un po' più concreta da parte di Piero da Torino, un'altra osservazione di Marco da Roma, ma tutti questi ascoltatori li ascoltiamo appunto dopo la nostra prima pausa, tra poco. Buongiorno. Io sono della rete dei precari al servizio. Grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Questa è la peggiore Italia, grazie. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando. Era il 15 giugno del 2011, l'allora ministro Renato Brunetta partecipa a Roma al Convegno Nazionale dell'Innovazione. Alla fine del suo intervento, dalla platea chiede la parola a una rappresentante della rete precari della pubblica amministrazione. Sale sul palco, si presenta molto educatamente. Il ministro invece se ne va apostrofando i contestatori in questo modo: siete la parte peggiore dell'Italia, con voi non parlo. La bagarre poi è continuata anche fuori dalla sala, col ministro inseguito, insomma quelle immagini fecero il giro di tutte le televisioni. Michele Gentile, coordinatore pubblico impiego della CGIL, se lo ricorda quell'episodio? Assolutamente sì. Magari era anche lei in sala, no, a seguire il convegno. No, non ero in sala perché non amavo seguire il ministro Brunetta nei suoi continui peregrinaggi e nelle sue esternazioni qualche volta non proprio felici, ecco. Offensive. È abbastanza sciocco. Allora, detto questo, noi l'abbiamo ricordato perché insomma anche perché lì vogliamo combattere il pregiudizio di chi pensa che in certi posti non si lavori e in altre invece insomma si sudi dalla mattina alla sera come nel settore privato, perché sappiamo bene che non è così. Detto questo, volevo spiegare ad Emanuele che ci scrive da Vicenza, Michele Gentile appunto lo chiedo a lei, di ribadire ancora il fatto che questa stabilizzazione contenuta nel pacchetto varato ieri dal governo non è nella sostanza, non stiamo parlando di un pacchetto che permette alla pubblica amministrazione di assumere altri 150.000 lavoratori, no. Stiamo parlando di 150.000 lavoratori che lavorano da anni nel settore pubblico, nei vari ministeri, ce lo spiegava prima appunto proprio Gentile, negli enti di ricerca, in tanti altri ambiti, e che giustamente hanno tutto il diritto di essere stabilizzati perché comunque lavorano, no? Tuttora, ecco. Volevo riprendere un passaggio dell'intervento prima dell'avvocato Falasca, e cioè il punto oggi nella pubblica amministrazione è questo: noi dal 2008 in poi stiamo assistendo ad un costante riduzione di dipendenti pubblici, siamo all'incirca circa 350.000 persone in meno, e secondo i nostri calcoli fino al 2015 ce ne saranno altre 130.000. Questa mattina a Radio Anch'io il ministro D'Alia ha detto che negli ultimi 10 anni il numero dei dipendenti pubblici è calato di 400.000 unità, quindi ha fatto una cifra ancora più o meno, diciamo, i numeri sono questi. E poi, secondo delle previsioni, da qui al 2015 ne avremo ulteriori 120-130.000. Il che significa che, poiché i servizi che le amministrazioni pubbliche offrono, danno al Paese, debbono essere fatti, allora o troviamo qualcuno che li fa, oppure questi servizi non possono essere fatti. Un po' di tempo fa, io in un'intervista ho detto che in realtà la non soluzione del problema dei precari porta a due questioni. Una, di carattere sociale: si perde l'occupazione, e in un momento come questo, nel quale l'occupazione è al livello nel quale ci troviamo, non è assolutamente pensabile che questa cosa possa avvenire. Due, se vanno via precari, chiudono interi servizi pubblici. Vi faccio un esempio: i famosi centri per l'impiego, che occupano 12.500 persone. Di queste 12.500, circa 5.500 sono mi viene precari. Da dire che sono l'emblema della precarietà, perché vengono gestiti i luoghi dove le persone cercano lavoro, esatto, sono gestiti da precari, che è incredibile. E quindi noi abbiamo lavoratori instabili per servizi stabili. Adesso la previsione, questa misura introdotta nel decreto legge di ieri, se appunto i testi la confermeranno, che cosa dice? Dice: coloro che attualmente prestano, adesso faccio l'esempio dei centri per l'impiego, ma vale per gli ospedali, vale per i comuni, per i ministeri, per gli enti di ricerca, coloro che attualmente prestano da 3, 4, 5, 6, 7 anni servizio come a tempo determinato in strutture che non possono bandire concorsi o che possono bandire concorsi assolutamente limitati, coloro che attualmente prestano servizio, che prendono una retribuzione ogni mese, quindi non costa nulla un provvedimento di questo genere, hanno, a mio modo di vedere, diritto a poter avere una prospettiva ed una certezza per il loro futuro. Questa prospettiva e questa certezza non è in violazione della Costituzione, perché, come l'avvocato Falasca ben sa, molte sentenze della Corte Costituzionale hanno posto un limite agli accessi riservati alla pubblica amministrazione, e il limite è il 50%. Quindi, quando si dice che il 50% non dei precari, ma il 50% dei posti messi a concorso saranno riservati ai precari, noi stiamo parlando di stabilizzare persone che attualmente lavorano e nello stesso tempo. Anch'io sono convinto che non basti scrivere esclusivamente per limitare gli accessi dei precari. Per limitare gli accessi dei precari bisogna avere la possibilità di fare alcune riforme di struttura e di riaprire la concorsualità. E infatti, questo che non avviene, è inevitabile. Posso dire però non nel sistema con cui è stata riaperta per la scuola, perché se dovessimo aprire la parentesi su quel concorso là... Gentile, non so cosa, ecco, esatto, ma ne parliamo magari in un'altra trasmissione. Esattamente. I centri per l'impiego collocano circa il 10% degli occupati. A cosa servono? Quanto costano? Chiede Sandro da Ascoli. È stato il tema di tante puntate di Salva Danaio. Abbiamo capito e commentato molto spesso con lo stesso avvocato Falasca ed altri ospiti quanto bisogno ci sarebbe appunto di riorganizzare radicalmente anche queste strutture, a partire dal fatto che, come avete sentito, sono spesso e volentieri gestite da persone che sono precarie. Quindi potete immaginare, insomma, che cosa può succedere lì dentro. E poi tanti altri commenti, qualcuno ritorna sull'episodio di Brunetta e ci ricordano chi fosse la persona che aveva sollevato la polemica con il ministro, la figlia appunto di un famoso parlamentare che evidentemente in quella fase si era fatta portavoce degli interessi di un gruppo più ampio. Andrei adesso invece agli ascoltatori, perché altrimenti sono in linea da tanto e mi dispiace, volevo invece farli sentire subito. Allora, Oscar da Rovigo, buongiorno, ci dica un po' qual è il suo punto di vista sulla faccenda che commentiamo oggi. Sì, buongiorno, io sono un esodato di quelli privati che non rientra in nessuna categoria, per cui sono un libero cercatore di lavoro. Mi sento molto discriminato da questo provvedimento, perché prende in esame solo una parte degli esodati o della gente o dei precari che sono a casa, non prende in esame il privato, e che è la parte, diciamo, economica che poi sostiene il paese. Se dobbiamo andare verso una ripresa, penso che sia quella la parte. No, che certo, Oscar, è assolutamente condivisibile il suo punto di vista. Lei in questo momento è una figura debole, chiaramente, dell'ambito appunto complessivo del lavoro di cui stiamo parlando, ma lei immagini di avere, che ne so, una figlia di 30 anni che da 5 anni viene chiamata appunto costantemente dal suo comune, per esempio dal comune di Rovigo, e viene chiamata perché magari è una brava professionista, perché ha dato il suo contributo appunto al buon funzionamento dell'ufficio per la quale magari viene preposta, e adesso ha l'opportunità di stabilizzare il suo posto. Lei non vedrebbe favorevole? Cioè, non è che stiamo parlando di un meccanismo, di un provvedimento che va a chiamare persone così per strada e le assume nella pubblica amministrazione. Stiamo parlando di persone che già da anni lavorano, che sono utili al settore pubblico e che quindi necessariamente devono essere stabilizzati. Io poi vi provoco, magari sbaglio completamente nel mio ragionamento. Oscar, non trova? Certo, sono d'accordo su questo, però il governo deve operare anche nel settore privato e in questo momento non fa nulla per il settore privato. Ci ha provato con qualche pacchetto, però insomma sappiamo che il mercato del lavoro avrebbe veramente bisogno di qualcosa di drastico. Oscar, ritorneremo anche allora di nuovo sul tema degli esodati, per i quali credo che forse nelle prossime settimane scatterà un meccanismo appunto di salvaguardia per altre migliaia appunto di lavoratori in questa posizione. C'è un ascoltatore che ci scrive: Stefano, sono un medico, negli ospedali pubblici molti reparti tirano avanti attraverso contrattisti precari, a volte vere e proprie finte partite IVA, fatturano ogni mese ma sono sottoposti agli oneri dei dipendenti, senza di loro buonanotte, dice Stefano. E anche Piero da Torino, un altro medico. Piero, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ci dica. Ho letto alcune cose, ho ascoltato un po' di notizie quest'oggi, forse un po' prematuro per formulare questa domanda, ma espongo la mia situazione. Io da 7 anni svolgo attività presso un ente pubblico, essendo medico legale, con dei contratti a tempo determinato di un anno che vengono regolarmente prorogati. Rinnovati, prorogati. Perché ovviamente l'ente pubblico ha necessità, essendo in parte, certo, in gran parte sottodimensionato. No, però io intanto la ringrazio di aver precisato per queste cose, perché comunque questo ente pubblico lei la chiama da 7 anni costantemente, gli rinnova il contratto, quindi torna ad esprimere la fiducia ed è corretto secondo me che lei venga stabilizzato in questo ruolo. Ecco, punto. Non lo so, io voglio dire, dal mio punto di vista, intanto c'è sicuramente della professionalità, altrimenti non avrei lavorato per tutto questo tempo, e quindi non credo che debba essere messa in discussione neanche attraverso un possibile esame, perché voglio dire, tutti i giorni io svolgo delle attività che non cambiano per il fatto che io sia un precario rispetto, certo, ad uno strutturato, oltretutto con dei contratti che probabilmente farebbero rabbrividire qualsiasi datore di lavoro privato, perché noi non abbiamo nessun tipo di tutela, nel senso che siamo ovviamente tenuti a rispettare, certo, orari, bollature e quant'altro, ma non abbiamo il raffreddore o sono scivolato, mi sono fatto male, resto a casa, non viene coperto. Piero, mi scusi una cosa, c'è un ascoltatore che dice: stabilizzare questi precari è un'ingiustizia perché sono tutti raccomandati. Lei è stato raccomandato da qualcuno? No, credo proprio, anche perché se no non sarei un precario. Ma aggiungo, nell'ultimo periodo credo che sia stato fatto un mini concorso che peraltro non copriva la mia regione, e quindi lei capisce che quando mediamente nelle varie sedi di questo ente pubblico 50% del personale è precario, e se non ci fosse l'ente pubblico sarebbe in difficoltà nell'erogare i servizi, qualche cosa dovrebbe essere, certo, fatto. No, Piero, io la ringrazio perché lei comunque almeno ci ha dato uno spaccato diverso rispetto a quello al quale siamo abituati a pensare, cioè che praticamente il settore pubblico sia formato solamente da persone che stanno dietro ad una scrivania, rispondono ad un telefono e fanno poco di più durante tutta la giornata. Invece, come avete sentito, nel settore pubblico le professionalità sono veramente a 360 gradi, di tipologia più diversa, per cui adesso sentiremo dai nostri esperti se possiamo dare un'indicazione al nostro ascoltatore se lui potrebbe avere la fortuna di, che ne so, partecipare ad uno dei prossimi concorsi che il governo appunto organizzerà, lo Stato organizzerà per stabilizzare queste persone, se potrà avere, che ne so, magari una speranza di poter essere assunta a tempo indeterminato da parte di questo ente presso il quale presta la sua opera di medico legale. Ci fermiamo adesso, suggerimenti per chi è in viaggio, quindi Falasca, poi torno con lei per la questione dei medici. Va bene. Abbiamo deciso attraverso questo provvedimento appunto di avviare un percorso e un processo di parziale inserimento di precari previa procedura altamente selettiva, perché riteniamo che per l'appunto la Costituzione vada assolutamente applicata. Ed era ancora il Premier Letta. Mi soffermavo su un messaggio inviatoci da Daniele da Firenze, che scrive: è curioso che la radio di Confindustria difenda così strenuamente i dipendenti pubblici, che tutti sappiamo come lavorano e se lavorano. La gentile conduttrice non dice niente nell'affermare che anche nel privato ci sono i nullafacenti, quelli li paga l'imprenditore, sono affari suoi, nel pubblico li pago io con le tasse. Considerazione sacrosanta. Daniele, cosa le devo dire? La radio di Confindustria non suggerisce, cioè Confindustria non suggerisce ai dipendenti e quindi ai giornalisti come trattare gli argomenti. Ci sono delle prese di posizione che noi in maniera indipendente possiamo prendere. Io non ho preso le difese di nessuno. Ritengo che però se queste persone delle quali stiamo parlando questa mattina da diversi anni vengono chiamate a prestare il loro lavoro presso enti pubblici di varia natura, come abbiamo detto, abbiamo sentito il caso del medico legale poco fa di Torino, io ritengo che sia anche giusto che allora abbiano il diritto ad una stabilizzazione. Non stiamo parlando di concorsi nuovi che si aprono perché i politici di turno possano appunto raccomandare queste persone ad andare ad occupare determinate seggiole nei vari ministeri, nei vari comuni, nelle varie regioni. Stiamo parlando di una questione diversa. Detto questo, io credo che anche queste persone, magari sono padri e madri di famiglia, hanno tutto il diritto di avere uno stipendio pieno, di arrivare alla quarta settimana del mese in maniera dignitosa come tanti altri. Le difficoltà adesso ci sono per tutti e ci sono anche per queste persone. Punto. Gianpiero Falasca, cosa rispondiamo al nostro medico legale? Allora, al medico legale rispondiamo che, diciamo, dovremo vedere il testo, perché l'abbiamo detto più volte, ma così a grandi linee mi pare che lui nei prossimi concorsi potrebbe diciamo accedere al 50% dei posti riservati. Se posso, cioè, che cosa ci spiega esattamente che cosa vorrebbe dire? Secondo lei praticamente questo ente pubblico indice il concorso, quattro posti, sì. Due sono per gli ex precari e due sono per i cittadini. Ecco, però lui il concorso deve farlo lo stesso. Certo, deve fare, ma infatti io questo volevo dire: attenzione, non si sta stabilizzando nulla. Ecco. Ci deve essere il concorso, i numeri potrebbero essere, al 2015 potrebbero essere entrate 500 persone con questa regola, 2000, cioè secondo me i numeri saranno questi, 4000. Non stiamo capendo, gli ascoltatori non stanno capendo che i 150.000 è la platea dei soggetti che potranno fare i concorsi, ma devono essere banditi i concorsi, devono essere definiti i numeri. E la metà di quei numeri saranno per gli ex precari. Posso aggiungere una cosa, Deborah? Sì. In relazione all'intervento dell'ultimo ascoltatore, io, anche se diciamo, neanche io adesso ho sentito Squinti prima di dire questa cosa, ma volevo dirla da prima. Secondo me nel decreto però c'è un principio che non è corretto. Allora, per il passato va bene dare un lavoro a chi ha subito un abuso, cioè l'abuso è stato chiamati 7 anni con contratto a termine, è un abuso, è una violazione di legge gravissima. Il medico ha subito un abuso, perché la legge già diceva che il contratto a termine doveva essere eccezionale e quindi va bene. Per il futuro però, e questo c'è nel provvedimento, stiamo dando letta, implicitamente un'idea di altro tipo allora al nostro ascoltatore, magari di far leva in maniera differente su quell'amministrazione per la quale lavora. Chiusa parentesi, ecco. Però per il futuro, secondo me, il grave errore che c'è nel provvedimento di Letta è farlo diventare regola questa storia del 50%. Cioè, si dice non useremo più il precariato, ma comunque tutti i concorsi futuri dovrebbero avere la riserva del 50%. Questo è un errore gravissimo, perché il cittadino esodato privato che non può, non ha l'anzianità, deve poter concorrere come gli altri quando saremo in un sistema dove gli abusi saranno sanati. Certo. Quindi io su questo quello è vero, poi però si aprirebbe anche un altro tema: ma perché il lavoratore esodato che è stato costretto appunto ad uscire dal mercato del lavoro deve addirittura rientrarci a 50 anni attraverso il meccanismo del concorso? Lei lo sa quanti rivoli concorrere potremmo aprire? Deve poter concorrere. Come tutti gli altri. In realtà, diciamo che a quell'età si sentono in diritto di rientrare attraverso altre vie più serene nel mercato del lavoro, concludere. Però la regola messa così fa assurgere a criterio prioritario di selezione l'anzianità, certo, e non il merito. E quindi l'efficienza della pubblica amministrazione lascia il passo rispetto. Ora, ripeto, per il passato io sono d'accordo, perché purtroppo questa gente qui, 150.000 persone, significa che ci sono stati troppi abusi. Perché già anche il contratto già prima doveva essere eccezionale. Dove sta l'eccezionalità in un contratto. Certo, perché se tu fai un pacchetto legislativo perché queste figure simili vengano nel settore pubblico e stabilizzate in qualche maniera, non si vede perché nel privato non si debba fare. Ribadisco, per quelle persone che già da anni e anni lavorano nello stesso ufficio, quindi è corretto, secondo me, che in qualche maniera abbiano una certa esempio. Poi è chiaro che adesso non c'è più trippa per gatti, è chiaro che dovremmo poter cominciare a risparmiare da ogni settore, ovunque, però insomma io penso che in realtà forse in termini complessivi lo spirito del provvedimento sia giusto. Detto questo, mi rendo conto che per chi ha magari maggiori difficoltà ad accedere in qualunque modo nel mercato del lavoro tutto diventa fastidioso. Chi sentiamo adesso? Luisa da Catania, perché ha una figlia che ha vinto il concorso come restauratrice. Luisa, buongiorno, per quale ente, per quale azienda, buongiorno, per quale società? Buongiorno. Diciamo, cerco di essere breve. Grazie. Nel 13 anni fa ha vinto un concorso bandito dall'assessorato ai beni culturali della regione siciliana. La mia domanda è questa. Ha mai lavorato intanto in questo ufficio? No. Ha lavorato, chiamata dalle varie... adesso... Vabbè, insomma, Luisa. Affinata. No, non si allora, allora. Dalle varie sovrintendenze è stata chiamata dalle varie sovrintendenze per dei lavori così di affidamento. Mm. Ma non in virtù del fatto che aveva vinto questo concorso. Assolutamente no. Mm. Assolutamente no, è da 13 anni che aspetta di essere chiamata, ma non ha mai lavorato. Ora la mia domanda è questa: l'assunzione dei vincitori di concorso riguarda anche quelli delle regioni a statuto speciale? Perché la regione Sicilia, certo, è la regione a statuto speciale. Grazie Luisa, grazie. Vorrei sentire un paio di ascoltatori, perché poi purtroppo devo già andare alle conclusioni e le lascerò fare a Michele Gentile. Allora sentiamo chi, altri ascoltatori. Marco da Roma, buongiorno, perché qua l'altro pregiudizio che le figure delle quali stiamo parlando siano tutte milionarie. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Mm. Sì. Io sono stato sia impiegato, adesso sono lavoratore autonomo. Sì. Quindi anche chiaramente non sono un esperto, credo di avere pregiudizi. Quando ero un impiegato ero un privilegiato. Mm. Adesso lavoro il quadruplo. È molto difficile nel settore privato, qualcuno non si dia da fare. È molto probabile che questo accada invece nel settore pubblico. Secondo me non bisognerebbe stabilizzare i precari, bisognerebbe precarizzare tutti quelli che hanno una sicurezza. Marco, perché questa è una garanzia, guardi, di produttività. Marco, cosa le devo dire? Darebbe gusto a tutti. Non sono così sicura che non andremo verso questa strada. Secondo me è questione di pochi decenni. Comunque lo vedremo, ma questo è un altro tema. La ringrazio. Chi sentiamo adesso? Ancora Carmine, un ultimo precario della sanità, poi verso le conclusioni. Carmine, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono sempre un precario della sanità. Mm. Lavoro in un ospedale romano, ormai da 4 anni. Sono un infermiere, intanto, di terapia intensiva. Volevo capire, la mia situazione contrattuale è un po' particolare, perché in realtà io 4 anni ho fatto un concorso in questa azienda, sono idoneo, però anziché essere chiamato a tempo indeterminato, sono stato chiamato a tempo determinato, certo. E regolarmente mi rinnovano tutti gli anni. Mm-hmm. Ma adesso mi chiedo perché noi, perché come me ne siamo in tanti, perché dovremmo fare un nuovo concorso per la stessa azienda? Per avere un tempo indeterminato. Ma in realtà, siccome, certo Carmine, ma in realtà la disciplina precisa di come verrà fatto il concorso deve ancora essere adottata, magari lei potrà essere esclusa in virtù del fatto che un concorso lo ha già sostenuto. Michele Gentile, non lo so, poi io immagino, ma qua sa com'è, qua siamo... Qui in realtà si parla, almeno, ripeto, nel testo che tutti abbiamo letto, ma che non è il testo definitivo, si risolve il problema passando da tempo determinato a tempo indeterminato attraverso un concorso pubblico con una riserva del 50%. Quindi paradossalmente, secondo lei, il nostro ascoltatore Carmine potrebbe pazzesco. Allo stato attuale dei fatti. Ah, esatto. Nel testo che sembrerebbe ieri il Consiglio dei Ministri abbia varato, c'è invece una specifica norma che riguarda la sanità, che tra l'altro volevo dire al medico ospedaliero di prima, che riguarda anche i medici, perché questa misura riguarda anche i medici del Servizio Sanitario Nazionale, che possono anche i medici precari, anche loro rientrano dentro questa misura del 50%. C'è un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite anche le regioni, esatto, per affrontare il problema della stabilizzazione nella sanità, perché la sanità ha alcune, come dire, normative specifiche, alcune delle quali per esempio possono anche essere richiamate nelle cose che diceva adesso l'interlocutore, l'infermiere, diciamo, sì, dell'ospedale romano, però c'è una norma di rinvio conclusiva. La mia impressione è che non si possa però derogare dal principio del concorso pubblico. Allora, un'ultima cosa, Gentile, in 10 secondi perché poi devo chiudere, purtroppo, sì. La scodatrice siciliana invece, la restauratrice? Ha un'idea? Diciamo che la norma di carattere generale non si applica di per sé alle regioni a statuto speciale, però... Ma questo ha fatto un concorso 13 anni fa? Sì, ma lì si tratta di capire come è stato bandito quel concorso. Va bene. Però se è norma di carattere generale è un riferimento per le regioni a statuto speciale. Certo. Ma le regioni a statuto speciale sono speciali per... Precaria vita la nostra restauratrice. Speriamo di no. Grazie a Michele Gentile, a Giampiero Falasca. Devo chiudere. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci risentiamo di nuovo tra poco per la borsa e a domani con Salvadanaio. Grazie a tutti. A domani.